L'oggetto del contendere in realtà è una tensione che si protrae ormai da diversi anni tra Varsavia e Bruxelles. Riguarda soprattutto la riforma della giustizia, tutta una serie di riforme che il partito di governo in Polonia ha attuato nel corso degli ultimi anni, da quando è il governo, quindi dal 2015. In questo momento di questo lungo conflitto, l'oggetto del contendere è una sentenza del Tribunale Costituzionale che ha affermato in qualche modo la supremazia del diritto polacco rispetto al diritto europeo, che ovviamente è stata accolta come una sentenza bomba. In realtà si inserisce in un lungo percorso di allontanamento da parte di Varsavia rispetto alle istituzioni europee, soprattutto sul versante, come dicevo, della giustizia, anche se per certi aspetti non è una sentenza che ci deve sconvolgere, perché anche se ovviamente con limiti diversi, però anche altre corti costituzionali europee si erano pronunciate, cioè in una maniera meno omnicomprensiva, sulla questione della compatibilità, diciamo, tra i sistemi nazionali e il diritto europeo. E anche la Corte Costituzionale italiana, se non sbaglio nel 2014, aveva detto che comunque la Costituzione italiana, soprattutto i principi fondamentali in particolare, prevalgono in caso di eventuale contrasto, ovviamente che non ci si augura, rispetto a diritto europeo, qualora ci fosse appunto un contrasto. La cosa che sorprende è che questa sentenza polacca invece sembra parlare di diritto europeo e diritto polacco in generale, quindi non soltanto sul piano dei diritti fondamentali, ma più in generale. E molti si chiedono se ovviamente, ecco, la Corte Costituzionale e il sistema giudiziario polacco più in generale siano effettivamente in grado di far valere i diritti fondamentali nel momento in cui questi diritti fondamentali sono garantiti da un sistema che non è più indipendente dal potere politico, e soprattutto viene a mancare anche l'unico modo che, diciamo, di garantire questi diritti fondamentali, che attraverso il diritto europeo, la Carta di Nizza in particolare. Quindi siamo in un momento, diciamo, in cui questa rottura si è accentuata, perché la procedura di infrazione, che è partita già da diverso tempo, è un po' in una fase di stallo e continuano questi momenti di tensione e contrasto. Tu dicevi è un processo di allontanamento che, insomma, non comincia certo con la sentenza della Corte Costituzionale polacca, però ti chiedo se da un lato, allora, a tuo avviso l'Europa procederà, se la Polonia non dovesse cambiare idea, con le sanzioni, e se si può verificare quello che tutti oramai chiamano come Polexit, cioè dopo la Brexit l'uscita della Polonia dall'Unione Europea. In questo punto secondo me è una sorta di soap opera molto, molto difficile da prevedere, perché sia sul piano della Polexit, no? Quindi un allontanamento da parte della Polonia rispetto all'Europa, nonostante questa situazione di estremo conflitto che si percepisce, no, da parte del governo, rimane comunque un paese che ha un altissimo livello di gradimento rispetto alla partecipazione all'Unione Europea, che garantisce comunque l'accesso a tutti i fondi europei e anche una netta anche crescita economica, perché la Polonia chiaramente non ha avvantaggiato tantissimo soltanto dei fondi, ma anche della presenza di tantissime multinazionali straniere. Comunque il diritto europeo è anche ciò che garantisce, per esempio, che un qualsiasi, no, lavoratore polacco possa stabilirsi in un altro paese, e è un paese che ha tantissima emigrazione, garantisce anche la presenza di tante aziende straniere in Polonia. Quindi di questo gradimento il governo ha sicuramente una chiara percezione, soprattutto il presidente, perché comunque è sempre stato un uomo che si è posto, un politico, insomma, che si è sempre posto, ha sempre cercato di proporsi come l'uomo del dialogo, diciamo, tra il governo e i momenti appunto di contrasto con le istituzioni e con altri gruppi, per esempio anche rispetto alla questione dell'aborto. E quindi in realtà io vedo difficile che possa avviare una procedura di uscita della Polonia dall'Unione Europea, e contestualmente mi sembra molto difficile anche che queste sanzioni da parte di Bruxelles possano essere effettivamente attuate in un arco di tempo piuttosto breve, dal momento che la procedura di infrazione è molto lunga, è qualcosa che non è mai stato finora portato fino in fondo, quindi c'è un'estrema difficoltà, e soprattutto ci sono anche molti alleati di Varsavia in questo scontro, quindi penso soprattutto all'Ungheria. Quindi qualsiasi eventuale sanzione deve poi comunque essere votata dal Consiglio, di cui fa parte chiaramente anche l'Ungheria, la Repubblica Ceca, tutto il gruppo che abbiamo imparato a conoscere come il gruppo dell'Est. Mi sembra molto difficile che questa situazione di conflitto possa risolversi in tempi brevi, ma anche con un divorzio definitivo o qualcosa del genere.